Al Tour con Ivan Basso. Appuntamento d'abitudine ormai, quello con il Tour de France di Ivan Basso in esclusiva per Radio 24. Oggi pedali fermi, prima giornata di riposo della Grand Boucle. Ivan, ben ritrovato. Beh, ci voleva proprio, l'occasione per tirare il fiato. Buonasera a tutti. Ma sicuramente è stata una settimana molto molto difficile e veramente c'è stato di tutto di più in questa settimana, percorsi molto complicati, brutto tempo, vento, tantissime cadute, quindi c'era proprio, credo, bisogno per tutti gli atleti di trascorrere una giornata tranquilla e prepararsi per tutta la prossima settimana. Ecco, giornata di riposo che però vale la pena ricordarlo agli appassionati che ti seguono, per voi è comunque sempre una giornata lavorativa, nel senso che non ci si ferma mai, non si scende mai dalla bicicletta. Ad esempio anche oggi quanti chilometri avete macinato te e i tuoi compagni di squadra? Ma è buona abitudine durante le grandi corse a tappe, nel giorno di riposo, comunque andare in bicicletta. Noi ci siamo svegliati dopo una colazione leggera, abbiamo fatto un paio d'ore in bicicletta ad un ritmo turistico e poi nel pomeriggio riposo, massaggi, la cena tra poco e poi via a dormire perché domani si riparte. Però è buona abitudine comunque non fare un riposo assoluto, altrimenti così si perde un po' quell'abitudine alla fatica che può poi portare ad avere delle brutte sensazioni domani. La notizia che arriva in questi minuti dal Tour de France è il fatto che la polizia francese abbia aperto addirittura un'indagine, un'inchiesta sulle cadute della tappa di ieri, in particolare quella che clamorosamente ha visto un'auto di una TV francese investire Flecha e Ongeland, che addirittura erano in fuga nel gruppetto di testa. Segno veramente che quest'anno, per quanto il Tour sia sempre difficile e durissimo, si è forse superato un po' il limite in termini di rischi per voi corridori, no? Ma sicuramente è stato un tour particolare, oltre alle cadute, diciamo, che ci sono state in gruppo, anche la moto e l'auto ieri chiaramente ha creato problemi ancora più grandi. Io credo comunque che le responsabilità dei due autisti, quello della moto e della macchina, sono casi isolati, perché comunque la maggior parte delle persone che ci sono qui, che vi assicuro sono tantissime, tutta gente rispettosa e che comunque applica il regolamento del tour. Io credo che le due persone che hanno causato l'incidente ne risponderanno nelle sedi opportune, questo è chiaro. Assolutamente d'accordo. Domani intanto si torna a pedalare e arrivo per i velocisti ancora, no? Ma guarda, qui non c'è nulla di scontato. Io credo che da domani bisogna correre sempre davanti nelle prime posizioni e cercare di non perdere tempo prezioso, e bisogna comunque correre con l'attenzione che abbiamo fatto in questa prima settimana di tour. Bene Ivan, allora grazie per la disponibilità, goditi queste ultime ore di riposo e poi ti ritroviamo a Radio 24 sempre domani sera alle 19 dopo l'arrivo di tappa. Grazie a voi, buona serata a tutti.